Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma con i colori dell'anima. Buonasera al nostro regista. Ciao Alessandro. Buonasera, buonasera a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Ho fatto proprio un marketing serrato stasera, vediamo poi domani chi ci ascolta o meno. Senti, ma vuoi salutare qualcuno in particolare, visto che... No, volevo salutare i miei colleghi, che oggi ci siamo visti per dare un saluto a una collega che va via per un'altra unità, e quindi ho detto stasera, dalle 9 alle 10 cosa fate? Tutti, ma no, io niente, non lo so, vediamo. Allora ascoltate la radio. Non una qualsiasi radio, Radio Alma, i colori dell'anima. E io vorrei dare il bentornata ad Anna Maria, ciao. Grazie, ciao Rosanna, ciao Alessandro. È vero che è un bel po' che manco sì. Dalla trasmissione. Fra una cosa e l'altra, insomma, diciamo che sono stata un po' impegnata. E la stasera tua voce... invece ci risuono di nuovo. La tua voce suadente ci è mancata. Oh, grazie. Pensavo che Alessandro mi avesse già sostituito, comincio a essere un po' gelosa. Anna. Beh, devo dire che l'ho trovata più giovane, però della tua altezza mai. Ah, beh, ecco, quindi sopra, sotto il 1,60 m, ecco questo vuoi dire. Allora, di cosa parliamo oggi, Anna Maria? Allora, parliamo di un argomento non piacevole, però ritengo che sia opportuno parlarne un po', si è sentito, l'abbiamo visto nei telegiornali, abbiamo visto un po' tutto. Parliamo del terremoto che c'è stato recentemente, cioè questo terremoto che è cominciato al mese di agosto e che non è ancora finito nel centro Italia. Ma è un argomento che ci sta particolarmente a cuore perché... Per me, Rosanna, noi veniamo dal centro Italia, quindi siamo più coinvolte. Sì, siamo coinvolte, ma penso che tutti gli italiani siano stati coinvolti, e non solo perché il terremoto purtroppo pare che si sia sentito fino a Bolzano a nord e fino in Calabria a sud, ma perché il cuore della nostra Italia in fondo è il cuore di tutta l'Italia, quindi non solo nostro. E quindi sì, parleremo un po' di alcuni argomenti, certamente non possiamo parlare, non possiamo dare dei dettagli, e comunque per questo lasciamo fare ai giornalisti, ai servizi speciali, a tutte le trasmissioni dedicate a questo argomento. Quindi noi toccheremo qualche punto e parleremo anche della tua esperienza personale, no Anna Maria? Un pochino. Infatti. Del tuo paesino Castel Raimondo, che in fondo è stato direttamente interessato. Il mio paese d'origine è stato interessato, ha avuto grossi danni, insomma, è un'area sismica e quindi sono cose che scioccano sempre, ma che comunque purtroppo la gente sa di che cosa si parla. Certo. Perciò magari vi racconterò due o tre cose, ma insomma non voglio rendere la cosa ancora più triste di quello che è. Io quello su cui vorrei un pochino puntare stasera è sulla grandezza del popolo italiano, perché abbiamo tendenza sempre a un pochino sminuirci, a un pochino dire in Italia questo non funziona, quell'altro non funziona, tante cose vere. In questo caso io sono testimone che della macchina che funziona. Che funziona, dell'efficienza che c'è stata negli attimi subito dopo l'evento, nell'efficienza della protezione civile, dei vigili del fuoco, è una cosa incredibile, io sono rimasta impressionata. Allora, io vivo qui a Bruxelles, ma ovviamente siccome la mia famiglia era lì, mi sono sentita di rientrare in Italia per vedere com'erano le cose, come stavano, insomma, ecco. E ho visto veramente un'efficienza, una professionalità incredibile. Beh, è molto bello questo, quindi parleremo anche di questo nella trasmissione di questa sera dedicata agli ultimi terremoti. E questa era l'introduzione. Che dici, Alessandro, vogliamo andare con un brano musicale? Decidi tu, eh? Il pezzo è già pronto, basta soltanto schiacciare play sulla nostra bellissima regia e ce l'ascoltiamo in diretta. Questo è un brano impegnato per artisti impegnati, per persone impegnate. Mm. sassi, passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, day by day, only shine on me, shine on me. Day by day, tell me, shine on me. Ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te. E comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Estrago un foglio nella risma nascosto. Scrivo e non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi. La vita, la vita si fa grande così. E comincia domani. Tra le nuvole e il mare si può fare rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Devo rialzarmi, tendimi le mani, tendimi le mani. Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi di là del temporale. E qualche volta si vede domani una luce di prua. Qualcuno grida domani. Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi. Siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi. Hai fatto il massimo non è bastato. E non sapevi piangere, adesso che hai imparato. Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo. Eccoci qua, cittadini d'Abruzzo. E aumentano di intensità le lampadine. Una frazione di secondo prima della fine. È la tua mamma, la tua patria da ricostruire. Come le scuole, le case, specialmente l'ugone. Eppure un lupo stupo facciamo l'amore. Signore e signori, noi non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia. Tra le nuvole e il mare si può fare rifare. domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui. Domani è già qui. Domani è già qui e intanto siamo a stasera. Siamo alla sera del 14 novembre 2016, state ascoltando I colori dell'anima con Anna Maria, Alessandro e Rosanna e stiamo parlando di terremoti. Allora, come aiutare le popolazioni colpite dal terremoto? Naturalmente ci sono molti modi. C'è un aiuto che è stato fatto subito dopo il terremoto, quindi diciamo nell'urgenza del terremoto. Ci sono altre cose che si possono fare in seguito, quindi anche adesso, perché comunque c'è molto da fare. E certamente abbiamo sentito parlare moltissimo in questo periodo di protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto, a parte quindi essere presente fisicamente, però ha anche aperto un conto bancario per raccogliere donazioni in favore delle popolazioni colpite, quindi prima dal sisma del 24 agosto 2016 e poi da quelli successivi del 26 e 30 di ottobre. E quindi le donazioni possono essere effettuate naturalmente tramite bonifico, quindi si va al sito web della Protezione Civile, che è www.protezionecivile.gov.it. Le risorse quindi versate su questo conto verranno utilizzate appunto e saranno gestite secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione dei numeri solidali. All'11 novembre tramite bonifici su questo conto corrente quindi erano stati raccolti oltre 4 milioni e mezzo di euro. Oltre a questo poi, come avrete visto sicuramente se vi è capitato di guardare la RAI in questo periodo, esiste anche un numero solidale che è il 45500. E di nuovo è un numero che si può fare appunto mandando un SMS e quindi ogni mandando un SMS in pratica vengono addebitati 2 euro e vari operatori telefonici, in particolare Fastweb, TIM, Vodafone, Wind, H3G, Coop Voice, Tiscali, TVT, Uno Communication, Cloud Italia, Convergenza e Poste Mobile hanno partecipato a questa iniziativa. Anche in questo caso quindi mandando questo SMS al 45500 fino al 13 novembre erano stati raccolti quasi 4 milioni di euro. Diciamo che queste sono le iniziative più importanti. E tu, Anna Maria, li hai visti quelli della Protezione Civile? Sì, ho visto insomma quello che ho potuto vedere, perché oltretutto io essendo di fuori non è che fossi particolarmente coinvolta, poi sono andata anche in altri paesi per persone della mia famiglia eccetera e non è che puoi andare a spasso, però vedi veramente l'efficienza, il fatto che tengono tutto sotto controllo, che gestiscono le persone, che gestiscono veramente l'incolumità di ognuno in maniera estremamente professionale e estremamente organizzata. Devo dire veramente che sono impressionata dalla velocità con cui riescono a gestire situazioni di emergenza. Veramente persone che hanno le prime notti dormito in macchina, che comunque sono riusciti a dare un pasto immediato a tutti, sono riusciti a in qualche modo proteggere tutti. Veramente sono delle grandi persone, veramente grandi persone. Cioè, questo è bello perché ti rendi conto che è un popolo veramente altruista, è un popolo che siamo un popolo altruista, che ci si dà da fare, che si e ciò che mi è piaciuto di più è che in questo aiutare le persone aiutavano, questi sono dei professionisti che aiutano, la gente riceve senza pur sentirsi sminuita, cioè ognuno mantiene la propria dignità. Questo è molto bello, forse non so, magari ecco, io ho visto le persone che mi stavano più intorno, quindi mantenendo dignità, mantenendo la voglia di fare, la voglia di... E certo, sono tutti traumatizzati, ovvio, certo, un evento così importante, così, così scioccante, con le scosse che continuano. Esatto, ma nessuno sta lì con le mani in mano aspettando che si sono dati da fare, i ragazzi, le ragazze giovani si sono tutti dati da fare per darsi una mano l'un l'altro, per... è stato veramente... Sono veramente impressionata, uh-huh, nessuno si è pianto addosso, uh-huh, e tutti pronti a dire no, noi domani ricominciamo. Questo così. Sì, sì, nessuno si abbatte, certo, nessuno si abbatte è un po' forse stupido dirlo, però perché comunque lo shock è grande, le persone anziane soffrono di più, però ho trovato veramente la volontà di non abbassare la testa mai. Uh-huh. Questo è importante. È molto bello. E a questo proposito volevo menzionare questo ragazzo che ha ricevuto l'onorificenza del Presidente della Repubblica, un ragazzo che si chiama Francesco Morelli, e lui invece era stato coinvolto nel terremoto del 24 agosto. Si trovava a Pescara del Tronto in vacanza e quindi, come tutti gli abitanti di Pescara del Tronto, chiaramente ha subito il terremoto, e però appunto a parte purtroppo una ragazza che era con loro che è morta, ma tutti gli altri che per fortuna si sono salvati non hanno esitato a scavare fra le macerie. Quindi probabilmente si tratta di situazioni così tragiche dove in fondo non si ha scelta, però si ha alle volte magari anche la paura è talmente grande che paralizza, mentre invece penso che l'esempio di questo ragazzo che appunto si è messo a scavare con le mani fra le macerie ed è riuscito a salvare varie persone in questa notte del 24 agosto è veramente bello. A questo aggiungo che è bello che lui abbia detto che non ha fatto niente di speciale, quindi mi ha fatto molta tenerezza, e mi fa tenerezza anche perché è molto facile così parlare in modo superficiale e sminuire i ragazzi che invece, come forse le persone di cui parlavi tu, quando poi si trovano in una situazione di emergenza si rimboccano le maniche senza rifletterci, sì, danno da fare. Sì, assolutamente, si danno tutti da fare, sì, tutti con le proprie possibilità fisiche e non, insomma... Veramente non c'è nessuno che si mette a braccia concerti e aspetta che qualcuno gli risolva il problema. Nessuno. Infatti. Nessuno. E quindi insomma questo ragazzo Francesco Morelli, che ha compiuto 18 anni a ottobre, quindi aveva 17 anni al momento del sisma, è stato il più giovane a ricevere questa onorificenza di Cavaliere al Merito da parte del Presidente Mattarella. E si è dato da fare, insomma, è stato molto bello, quindi un bellissimo esempio di come i giovani ragazzi, i nostri ragazzi sanno quello che c'è da fare. E vabbè, insomma. Adesso mi metto a piangere, quindi forse è meglio se andiamo con un altro brano musicale. No, pensiamo a qualcosa di super positivo. No, no, ma è positivo, cioè mi viene da piangere per così, per la tenerezza. Per la tenerezza di queste, no, di queste persone. Ne abbiamo, se ne abbiamo, va bene, sì, grazie. La nostra produzione... Io invece vi racconto una cosa che mi è stata raccontata, non l'ho vista con i miei occhi, però è una cosa molto carina, per esempio, che nelle zone rurali, quelle che sono un pochino, che sono più lontane dalle città, eccetera, dove c'è tanta gente che vive di allevamento. E addirittura per i pastori, mi hanno raccontato la storia appunto di questo pastore che ha tipo 200 pecore, perciò una quantità enorme che non era facile gestire, la protezione civile è riuscita a trovare dei capannoni mobili riscaldati, non ho mica capito, insomma sono riusciti a dare un asilo anche a tutte l'alloggio le pecore. Alle pecore. L'alloggio alle pecore. Bellissimo. È fantastico perché Bellissimo. Il pastore comunque non si sarebbe mosso. E non si sono mossi. No, tutti gli allevatori, nessuno di loro si è voluto muovere. C'è addirittura un delle vignette che girano in internet di insomma dei fumetti proprio su questo argomento, sulle persone che vanno a salvare la gente terremotata, dicono ma venite via, loro dicono non esiste, io lascio le mie mucche, non esiste proprio. Uh-huh. Ed è così, insomma la loro vita è lì e lì stanno con Del resto chi vive di questo, certo, è giusto che protegga i propri animali. Certo, certo. Allora Alessandro, adesso vogliamo veramente andare con questo brano, che dici? Il brano è già in corso, adesso cambio le frequenze sul mio bellissima regia e vediamo cosa succede. Alessandro sembra un astronauta in questa regia, sei nel tuo ambiente. Sì, direi che mi piace parecchio. Si vede proprio. E valeva la pena ascoltarla fino alla fine, My City of Ruins, Bruce Springsteen. Perché questo brano ha scelto? Spiegaci, Alessandro. Perché durante uno dei concerti che ha fatto in Italia quest'estate ha dedicato questa canzone ai terremotati e agli sfollati. Mm. E quindi è stato un bel gesto. Quindi anche a carattere internazionale l'Italia, sì, seppur in un contesto non gioioso come questo, si lascia, sì, distinguere. Quindi artisti di carattere internazionale si sono scomodati, secondo le proprie esigenze, per darci un po' di gioia. Grazie mille. Allora, come aiutare le popolazioni colpite dagli ultimi terremoti? Abbiamo detto quindi la protezione civile, si possono fare donazioni in denaro, numero solidale, è ovvio poi che si può anche lavorare per la protezione civile, ma questo è un altro discorso che richiede quindi preparazione, richiede il desiderio di farlo. Ma tra l'altro volevo anche sottolineare a questo proposito che in effetti esiste una norma giuridica che disciplina la protezione civile ed è un decreto del Presidente della Repubblica del 2001 in cui è stato stabilito che un datore di lavoro è tenuto a far usufruire di permessi il proprio dipendente volontario della protezione civile se partecipa ad interventi di soccorso e assistenza. E questi permessi possono essere normalmente per un periodo di massimo 30 giorni, però questi giorni possono andare fino a 90. Infatti, addirittura si raddoppiano quando appunto ci sia uno stato di emergenza nazionale, che in questo caso appunto sono stati gli ultimi terremoti. Il lavoratore quindi che va a svolgere l'attività di volontario per la protezione civile ha diritto a mantenere chiaramente il proprio posto di lavoro, ottenere il normale trattamento economico e previdenziale e avere la copertura assicurativa di sempre. Il datore di lavoro ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad ottenere il rimborso della retribuzione che elargisce al proprio dipendente per il periodo in cui sarà impegnato nello svolgimento della propria attività di volontario presso la protezione civile. E quindi insomma ci sono una serie di dettagli, ma naturalmente anche questi si possono trovare sempre al sito della protezione civile e quindi in questi casi chiaramente bisogna essere preparati a delle situazioni molto tragiche, perché immagino che soprattutto immediatamente dopo il terremoto andare nei luoghi dove ci sono le case distrutte, dove c'è la gente sotto che ha bisogno di essere tirata fuori, chiaramente quindi ci vuole una grande, diciamo, secondo me non solo capacità fisica ma anche capacità psicologica di poter reagire rapidamente a tutti, ai bisogni, diciamo, ai primi bisogni delle persone. Quindi questo era per la protezione civile, ma diciamo che le attività, le leggi che regolamentano il volontariato vale anche per altre attività e comunque si è visto che in seguito a questi terremoti moltissime associazioni si sono messe in attività. Per esempio c'è un'associazione che si chiama AMPAS con psicologi di emergenza, medici, idraulici, infermieri, insomma categorie di lavoratori di vario genere, che hanno portato il loro sostegno ai territori di Umbria e Marche colpiti dagli ultimi terremoti del 26 e 30 ottobre. E per esempio a Norcia c'erano i volontari della colonna mobile nazionale AMPAS che si sono occupati, ma che si stanno ancora occupando, della distribuzione dei pasti con questo modulo cucina della mensa che è stata installata appunto il 26 ottobre. E come dicevi tu, Anna Maria, questi posti mensa, queste tende sono state installate anche, dove hai visto tu rapidamente, insomma, il giorno dopo? Sì, sì, sì, sono velocissimi, sono stati tutti velocissimi. Mm-hmm. Non hanno fatto mancare niente a nessuno, ecco. Mm-hmm. Sì, sì, sì. E poi ci sono altre associazioni, per esempio c'è il gruppo Umana Solidarietà che attivo lo stesso immediatamente dopo le prime scosse e che appunto ha potenziato il personale, va bene, i comuni ovviamente interessati tipo Arquata del Tronto e Alto Maceratese. Ma poi ci sono state varie linee di intervento e soprattutto centri di ascolto. È interessante poi anche che ci sono state varie iniziative in favore dei bambini, a parte l'associazione Save the Children che ha subito allestito, per esempio nel caso del terremoto di Amatrice, uno spazio a misura di bambino e questo appunto con la possibilità di aprirne poi anche di altri. E c'è stata poi l'associazione invece Chianos, che a Viterbo per esempio ha raccolto i vestiti per bambino e che lo fa ancora. Chianos, quindi scritto Kyanos, Chianos. Ma oltre a questo, per esempio, un altro aiuto è stato dato alle neomamme, che appunto in condizioni di stress come può essere il terremoto, in alcuni casi per esempio magari hanno perduto il latte e in questo caso l'associazione Alma Mater di Rieti che quindi ha messo a disposizione assistenza telefonica per queste mamme che avevano questi problemi e quindi per vedere come aiutarle. Quindi diciamo che quello che volevo dire, a parte l'aiuto importante, fondamentale della protezione civile e di tutte le forze dell'ordine, come dicevi tu Anna Maria, ma ci sono state una serie di piccole iniziative, probabilmente diciamo più indirizzate verso alcuni bisogni particolari, che sono altrettanto importanti e che quindi fanno parte di questa grande macchina che si è attivata in seguito ai terremoti. E, vabbè, anche parlavamo di Save the Children, ma anche l'UNICEF che ha messo a disposizione delle iniziative per quanto riguarda i bambini appunto colpiti dal terremoto. E poi mi piace anche parlare di alcune iniziative più caratteristiche, tipo quello di donare 2 euro a chi prepara la matriciana. Anche questa è stata, credo che lo sia ancora, ma insomma è stata un'iniziativa molto carina. Ma c'è stata anche qui a Bruxelles questa iniziativa. 2 euro per la matriciana. Sì. E quindi appunto in ricordo di questa città dove è nata la matriciana, quindi chi prendeva il piatto di amatriciana, 2 euro di questo piatto venivano dati appunto in aiuto a iniziative riguardanti le zone dei terremotati, ma voglio dire l'hanno fatto in tanti, insomma, molte società hanno raccolto iniziative in questo senso, quindi non solo raccogliere soldi che già di per sé è una cosa importante, ma raccoglierli dietro ad una iniziativa che è ancora più significativa. No, è importante vedere come anche in questo caso chi come può, secondo il proprio settore, ha sviluppato un tipo di aiuto diverso, quindi ci sono associazioni come Save the Children, che è presente in quasi tutta Europa, tutto il mondo, che ha dato il suo bagaglio di conoscenze per aiutare poi tutta una serie di persone che sono quelle più colpite da questo sisma, quindi bambini, altre che hanno sviluppato secondo i propri criteri più aiuti agli anziani, altre ci sono anche, poi ne parleremo più tardi, aiuti economici per il tessuto economico produttivo dei paesi colpiti da questo sisma e ad esempio qua a Bruxelles ho conosciuto anche persone proprietari che lavorano in alcuni ristoranti dove prevalentemente propongono piatti vegetariani, perché quello è il loro credo, quindi fanno soltanto carne e pesce, che però in quell'occasione hanno preparato la matriciana, quindi hanno sovvertito il loro menù tradizionale che non prevede carne di nessun tipo e hanno comprato carne e hanno fatto questo tipo di iniziativa. Quindi uno cambia anche le proprie abitudini, mettiamole così, lavorative, proprio di dare. Questo mi fa tornare all'introduzione che io ho fatto quando dico che siamo un grande popolo, perché ci si attiva anche a distanza, anche se magari nessuno di queste persone magari aveva un familiare o comunque hanno fatto qualcosa. E questo mi fa essere orgogliosa, insomma, io sono orgogliosa di essere italiana perché abbiamo un altruismo da vendere, direi. E lo apprezzo e mi fa piacere. Io nel mio piccolo non potevo fare niente, ho comprato un sacco di ciabuscoli però. E per questo te ne saremo sempre grati, sì. A Natale distribuiremo così. Oppa. Io ho fatto il giro di tutti i negozietti che potevo fare, ho comprato i salumi, queste cose qui, che esatto. Sembra stupido in realtà, però sai che bello, fatto una valigia proprio, sono tornata a Bruxelles con una valigia, non c'era niente dentro se non salami, ciauscoli e salsicce. Classica valigia, come si direbbe, del terrone fuori sede. Esattamente. E quindi guarda, per Natale fai dei bei pacchetti con una bottiglietta di birra, col ciauscolo e guarda che la gente... Lo so. Dallo ai belgi, qua impazziscono, eh? Impazziscono tutti. Poi tutti i prodotti artigianali fondamentalmente, perché le nostre regioni grandi, ci sono grandi industrie, d'accordo, però ci sono dei prodotti che non so se li conoscete, ma sono tipicamente artigianali, quindi non è che vengono esportati perché non ci sono conservanti, insomma per una serie di cose. Sì. Non stiamo a raccontare un po' tutto, però il prodotto artigianale e quindi insomma io mi sono fra virgolette divertita ad essere utile in questo senso. Quindi facciamo così, per la prossima trasmissione che sarà il 14 tu potrai portare qualche prodotto tipico e quindi chiamiamo tutti gli ascoltatori, facciamo il panino in diretta e lo commentiamo, però tutti gli ascoltatori che ci ascoltano a questo momento, se vogliono venire qua bussano alla porta. Certo, ce lo devono far sapere prima, così noi prepariamo i panini per tutti. No, che prima arriva meglio alloggia. Per tutti no, la mia valigia non era abbastanza grande. No, che prima arriva meglio alloggia, ci vengono qua di fianco alla stazione di Gare du Midi, noi ci troviamo qua all'espace di Saint-Gilles e vengono, bussano e gli diamo dietro, chiaramente offerta congrua, un panino. Certo. Che va ovviamente a beneficio. Chiaro, non nostro, eh? No, non vogliamo. Soldi. No. Per noi money is not an issue. Io invece passerei dall'Abruzzo Marche e andrei verso Reggio Emilia, se mi consentite. Bene, sì. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Io vorrei ricordare una bella gita che ho fatto un anno e mezzo fa circa, a Camerino, a Norcia, a Castelluccio, insomma questi paesi che purtroppo li abbiamo visti tristemente ridotti molto male in questo, dagli ultimi terremoti di ottobre in particolare. E, insomma, sono contenta di averli visti, sono contenta che me li hai fatti vedere tu, Anna Maria, che sei di quelle parti e quindi me l'hai fatti vedere con un occhio diverso, però sapere che altri non li potranno vedere mi rattrista veramente in modo terribile, in particolare Castelluccio, questo paesino così piccolo, arroccato, dove non c'è niente se non la produzione di lenticchie, di formaggio, e adesso questo paese è completamente in macerie. Adesso di questo paese effettivamente non ne è rimasto molto, però io voglio essere positiva, ce ne sono stati altri di terremoti, quella zona è una zona sismica da sempre e ogni volta è stato ricostruito, Quindi sono positiva, ci vorrà del tempo, ci vorranno anni, ma visto la tenacia delle persone che vivono lì e a quanto sono attaccati alla loro terra, sono sicura che si metteranno tutti al lavoro e ricostruiranno tutto. Perché per queste persone ho visto veramente che l'attaccamento è qualcosa di speciale. Noi siamo tutti espatriati, forse non ce l'abbiamo più, forse ormai si è un po' attenuato, ma la gente che vive di quella terra ti posso assicurare che farà di tutto per ricominciare tutto da capo nel più breve tempo possibile. E comunque giusto questa informazione, io non ci capisco niente di geologia e nulla di particolare, però c'è una montagna che si è spaccata e si è divisa a una spaccatura alta 75 centimetri, quindi una montagna intera, giusto per renderci conto della potenza di quello che è stato. Ma quelle zone rinasceranno, ci vorrà molto tempo, ma rinasceranno. Sì, non, lo speriamo tutti e rinasceranno anche rapidamente. Così, lo voglio sperare, me lo auguro e... Ne parleremo ancora, magari fra qualche anno riparleremo di questi paesini. Dunque, no, volevo, a proposito di come aiutare, un altro fenomeno che si è verificato e che si verifica sempre in caso di terremoti, qual è? Lo sciacallaggio. Cioè, le vittime del terremoto non solo sono vittime del terremoto, ma sono vittime anche degli sciacalli. Che anche la parola sciacallo mi sembra troppo gentile per descrivere quei disgraziati che vanno a rubare il poco che c'è rimasto in questi posti. E quindi molti negozi, effettivamente, delle zone terremotate, molti proprietari di negozi, come abbiamo più volte visto anche in televisione, che dormono in macchina davanti ai loro negozi perché sanno che possono andare questi sciacalli a derubarli. E allora anche in questo caso si è messa in moto una bella iniziativa, che è quella di poter acquistare online i prodotti, perché chiaramente magari molta di questa merce rischia anche di rovinarsi se non viene venduta. Però ancora una volta c'è una grande confusione, perché da una parte, ok, è bello, molti negozi sono stati messi online, ma dall'altra anche lì di nuovo lo sciacallaggio, cioè qualcuno che approfittando magari ha creato un finto sito di un finto negozio e vende dei finti prodotti, quindi magari riceve i soldi e poi non manda nulla. E quindi anche in questo caso mi sono messa un po' a guardare su internet, però appunto c'è di tutto, ma a quanto pare c'è il sito di Valtellina Online, che riguarda ovviamente soprattutto, Valnerina Online, Valnerina Online, quindi, dove ci sono una serie di siti internet di vari negozi che effettivamente possono, dove si può effettuare la vendita online. E comunque, insomma, ho letto anche alcuni consigli, per esempio, come si fa a capire che un sito internet è falso? Per esempio, se propone dei prodotti sotto costo, perché comunque sia questi prodotti hanno un valore e non possono essere venduti a prezzi bassi, oppure se ci sono delle foto troppo patinate che magari si vede chiaramente che sono stati presi da altri siti internet, oppure se ci sono delle descrizioni troppo brevi, quindi non ci si sofferma a descrivere il prodotto. Oppure se non c'è il telefono, eccetera, eccetera. Quindi ci sono, diciamo, alcuni accorgimenti che dovrebbero aiutare chi guarda, diciamo, questo tipo di siti internet a capire se si tratta di un sito vero e proprio oppure se è una cosiddetta bufala. Ad ogni modo, appunto, pare che la cosiddetta polizia postale abbia quindi controllato i siti che sono disponibili a Valnerina Online, dove vedrete quindi vari negozi. Chiaramente qui parliamo soprattutto di Norcia, insomma dell'Umbria, ma probabilmente insomma ci saranno anche negozi nelle Marche sotto altri siti che io non conosco, insomma, ma per dire che questo è un altro modo di aiutare queste popolazioni, soprattutto nel post terremoto, perché certamente ci sono delle cose da fare che andavano fatte subito dopo il terremoto, ma un sacco di altre restano da fare, quindi insieme alla ricostruzione di cui parlavamo, che è fondamentale per poter ricostruire, per poter ridare il futuro alle persone che abitano in queste zone, è prima di tutto rimettere in piedi le attività produttive, quindi permettere alle aziende. Io ho conosciuto un signore che è una persona che conosco da sempre nel mio paese, che loro producono per esempio prodotti per animali, cibo per cani, insomma cose abbastanza così, e ha detto: la mia fabbrica è distrutta, ma lui si è preso dei container e si è rimesso subito a lavorare. Lui lo ha potuto fare perché aveva i mezzi per poterlo fare, cioè il suo giro d'affari gli ha permesso di poterlo fare, altri un po' meno. Quindi comprare questi prodotti li aiuterà a rimettere in piedi velocemente la loro attività e ridare il lavoro alle persone che per ora sono tutte a casa, perché se la struttura è pericolante non possono andare a lavorare. Certo. Allora, volevo fare una breve parentesi, vorrei salutare Emilia che mi sta ascoltando e spero che anche Jacopo mi starà ascoltando, ciao, e volevo appunto continuare quindi con questi aiuti. Ci sono aiuti di tutti i tipi, per esempio c'è un altro aiuto che io ho trovato simpatico, si chiama Pronto Pro, e sono professionisti, in questo caso elettricisti, idraulici, imprese edili, che sono iscritti a questo sito che si chiama Pronto Pro e che anche loro contribuiscono offrendo servizi, perché chiaramente parliamo sempre di dare soldi, no? Dai soldi a questo, a quell'altro, numeri solidali, però alle volte serve questo forse anche molto di più, e soprattutto visto che parliamo di ricostruzione o perlomeno di messa in sicurezza magari di alcune strutture. E ci sono quindi, c'è questa associazione che si chiama Pronto Pro, che appunto durante l'emergenza è in grado di dare degli interventi, diciamo, di urgenza, andando nelle case e così fornendo dei servizi pratici molto utili. Anche questa mi è sembrata un'altra bella iniziativa. E non abbiamo pensato al colore, giusto? Io proporrei canzone, così canzone noi, poi colore. Gli ascoltatori, ci pensano e poi scegliamo colore. Va bene, se qualcuno che ci sta ascoltando, magari qualcuno dei tuoi colleghi, Alessandro, ha idea di un colore che potremmo associare a questa trasmissione, ce lo dica. Io ce l'ho un'idea, ma ve la dico dopo. D'accordo, non svelare. Lo scopriremo insieme su colori dell'anima. Eccoci ancora su Radio Alma, Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen. Allora, questa sera non solo canzoni italiane, ma anche canzoni straniere, perché legate comunque a questo argomento, e appunto in questo caso invece per ricordare il grande Leonard Cohen, che se n'è andato pochi giorni fa insieme purtroppo anche al professor Veronesi, grande scienziato, esperto soprattutto dei tumori ginecologici femminili. Allora, il colore della trasmissione di oggi, dedicata agli aiuti alle zone terremotate. Ma io ho pensato al rosso mattone, ovviamente. Uh-huh. Il rosso mattone per un'idea di ricostruzione. Di rifare di nuovo da capo le case di ognuno, le case di attività e tutto il resto, perché da che mondo è mondo gli uomini costruiscono. Certo. E quindi Rompe si ricostruisce. E quando si rompe si rimette in piedi, si ricostruisce. Va bene, mi piace. Tu che pensi? Sei d'accordo col rosso mattone? Mi piace parecchio il rosso mattone e anche il colore di casa mia. Allora non poteva essere diversamente. Facciamo rosso mattone con le imposte blu, sai che bello. Bijou. Che è casa tua. Bellissimo. Questa? Sì. Certo. Vabbè, verremo a vederla. Certo che verremo a vederla. Siete tutti invitati. Va bene. Vabbè, comunque insomma continuiamo ad aiutare come possiamo, appunto come hai fatto tu, Anna Maria, comprando i prodotti locali. Sì, ho preso 3 chili però nel frattempo. di bagaglio, vuoi dire? Sì, chiamiamolo bagaglio. Cerchiamo di aiutarli in tutti i modi e magari inventiamoci anche noi un modo diverso per aiutarli e anche per dare un supporto psicologico quando è possibile e speriamo veramente che questa ondata di terremoti sia finita. E, un augurio quindi a tutti di buona serata, buona continuazione. E buonanotte. E buonanotte. E ovviamente i colori dell'anima torneranno ancora lunedì 21, 28, poi ancora a dicembre, fino al 19 dicembre, quindi staremo in vostra compagnia. Grazie Alessandro. Grazie a voi. E io lascerei i nostri ascoltatori con questa bellissima canzone, che non c'entra niente col terremoto, però alcuni proventi derivanti dalle vendite di questa canzone sono stati devoluti per le zone terremotate. Speriamo che vi piaccia e qui si conclude in bellezza. Ciao ciao. Ciao a tutti.